apre una rotazione obbligatoria, per cui chiunque deve, cioè, anzi adesso magari spieghiamo anche di che cosa stiamo parlando di Arziti, che noi diamo ufficialmente scontato, inaugura venerdì, cioè sarebbero venerdì, sabato e domenica, poi però un sacco delle cose di Arziti inaugurano prima, anzi non inaugurano prima perché non c'è un'inaugurazione, ma aprono prima e poi alcune chiudono anche subito, altre chiudono un po' più dopo, insomma. un po' più dopo non è male. Io comunque sono altamente disorientata, quindi non sono sicura di essere in grado, ma tu sei molto più sul pezzo di me, quindi sono un po' sul pezzo. Mandiamo un primo pezzo, già che sei sul pezzo. Sono io che sto suonando la chitarra. Ah, ti sei dato la musica? Hai visto? Ah, vedi. Senti qua. You don't need to be such a bitch. Just fucking calm down, you fucking turd. Don't be so mean, you motherfucker. Take a breath, you motherfucker. Don't have to be so mean. Just fucking shut your mouth if you ain't got nothing nice to say. Don't be so mean, you motherfucker. Don't be so mean, you motherfucker. Just be real clean, motherfucker. Don't be mean, motherfucker. It's not cute, it's not pretty, it's not handsome, it's pretty shitty. Don't be mean, you motherfucker. Don't be mean, you motherfucker. Please don't be mean, just be nice, you motherfucker. Era un po' che volevo suonare sto pezzo registrato da Instagram. Ma tu mi senti? Adesso no, ti avevo abbassato perché... Perché ogni tanto... Coxo spaziale! Perché volevo ricordare a tutti che trasmissione stanno ascoltando prima che cambiassero canale, no? Approfittiamo di questi brevi minuti di permanenza in onda e... Quella che abbiamo appena sentito era un pezzo improvvisato da Emily Butler, e quando l'ho sentito su Instagram ho detto questo lo metto su Coxo Spaziale. Lei naturalmente molto contenta del fatto che qualche weirdo dall'altra parte del mondo prestasse attenzione. Non è male. Anzi, io fra l'altro volevo visto che ho incontrato Aldo Giannotti poco fa, proprio gliela vorresti dedicare? No, volevo dedicarla agli amici in comune che io e Aldo abbiamo, che adesso ci dici chi sono? No, assolutamente non posso, perché la canzone appunto si intitola Don't be so mean so you motherfucker. Sai che cosa succede questa settimana? Che naturalmente Lorenzo Balbi, che è il direttore di Bologna, cioè è il direttore artistico del Mambo e della parte contemporanea di Bologna Musei, diciamo le cose come stanno perché sennò poi mi sgridano, naturalmente è troppo impegnato per essere qui con noi a parlare di Arziti. Perché? Perché inaugura qualcosa, anzi apre qualcosa ogni 4 secondi, esatto, ogni 10 minuti. E dunque, però, in compenso il fantastico nostro... non ci ha mandato niente. Noi abbiamo persone che lavorano per Coxo Spaziale dovunque, uno dei nostri inviati. No, in realtà il nostro collega magnifico rettore di Radio Città Fujiko, William Piana, ha intervistato Lorenzo su Arziti la settimana scorsa, e dunque adesso ve lo riascoltate, perché giustamente io ho pensato: ma perché devo chiedere le stesse cose di William a Lorenzo, che deve dirmi di nuovo le stesse cose? E quindi siamo al parassitaggio puro. Rubiamo direttamente i servizi fatti da altri. Esatto. Comunque che prendiamo in prestito, no, anche perché siccome io lo so che i nostri ascoltatori non ascoltano Radio Città Fujiko anche alle 7:30 di mattina, per cui direi che non ci sono grossi problemi. Comunque ascoltiamo cosa Lorenzo Balbi ha raccontato al nostro caro William Piana, che naturalmente ringraziamo, ma lui non sa nemmeno che stiamo rubando un suo pezzo. Lorenzo Balbi, direttore artistico di questa nuova edizione di Art City 2021, un'edizione particolare. Come apre, Lorenzo, questa nuova realtà che stiamo aspettando? Apre, mi piace pensare che Bologna riparte dall'arte contemporanea, e che è innegabile che il primo evento in presenza, il primo evento aperto al pubblico fisico finalmente di nuovo negli spazi insieme ad altri è Art City Bologna 2021. Quindi siamo contenti che l'amministrazione comunale, ma soprattutto tutti i partner istituzionali pubblici e privati, abbiano deciso che si doveva guardare avanti e che la ripartenza dovesse essere guidata dalla creatività e dalla ricerca nell'ambito delle arti visive contemporanee. Quindi apre un po' come con un messaggio positivo, che è quello di guardare avanti, guardare al futuro e farlo attraverso anche le suggestioni, i linguaggi degli artisti. È un'edizione questa che forse ancora più di altre ribadisce il ruolo di Art City come scintilla, come aggregatore. Ovviamente Art City è un programma di mostre, di iniziative istituzionali, pubbliche e private, con tanti partner coinvolti che sono gli attori, i protagonisti della scena artistica di Bologna, ma il bello di Art City è che è proprio una scintilla, è un qualcosa che scatena un po' tutta la creatività nella nostra città, e stiamo vedendo come in queste settimane si stiano organizzando tutti, anche gli artisti, le gallerie private, gli spazi no profit, gli spazi indipendenti, le associazioni culturali, per ricominciare grazie a questo stimolo che abbiamo cercato di far partire con questa edizione di Art City. Grande spazio per protagonisti che sempre sono presenti e sempre sono per i riflettori di Art City, cioè i giovani. Esatto, come quest'anno tutti sappiamo che purtroppo la fiera, Arte Fiera, che è il contesto, il contenitore in cui Art City si è sempre collocato, purtroppo non si è potuta svolgere per via del blocco alle manifestazioni fieristiche, per il contingentamento, per il rispetto della tutela della sicurezza dei visitatori, ma la fiera è comunque presente perché un importante evento main di Art City con Stefano Arienti è proprio coordinato dalla direzione artistica della fiera. Ma questo è un anno che guarda tantissimo all'Italia, perché ovviamente Arte Fiera, Bologna in generale, sono città e un contesto fieristico che hanno basato sotto la propria attenzione lo sviluppo, la valorizzazione dell'arte contemporanea italiana, e questo è ribadito con forza anche quest'anno, ovviamente un anno in cui è anche una scelta obbligata, in quanto gli artisti coinvolti dovevano per forza, per essere raggiunti, essere vicini a noi, e quindi un'edizione fortemente italiana in cui negli eventi main, ma anche in tutti gli eventi che costituiscono questa costellazione di Art City, sono coinvolti artisti di differenti generazioni, ancora più del solito, quindi si va da artisti giovanissimi che vengono proposti a un palcoscenico nazionale e internazionale per la prima volta, ad artisti già conosciuti, cosiddetti mid-career, che già troviamo nelle fiere, nelle gallerie, nei musei di tutto il mondo, fino ai grandi maestri come Michelangelo Pistoletto, che sono rappresentati anche in alcune delle iniziative di Art City. Quindi c'è una grande varietà, ma come sempre si parte da una base che è poi quella su cui vogliamo sempre concentrarsi, che è quella di dare spazio ai giovani, dare possibilità di valorizzazione agli artisti che stanno iniziando la loro carriera. Mi è piaciuto tantissimo il termine mid-career. Questo è, se posso te lo rubo anche durante le certo. dirette. Allora, assolutamente. Una novità che è così d'impatto, no? Di solito nelle esposizioni dico a direttori artistici o a curatori un'opera, in questo caso invece una novità. La novità più eclatante di questa edizione di Art City è il cambio dell'immagine coordinata. Abbiamo osato, abbiamo voluto osare, abbiamo pensato che dopo 8 edizioni, questa è la nona edizione, Art City fosse ormai un festival e un'iniziativa indipendente, forte, riconoscibile, con un suo proprio ruolo deciso e marcato nella stagione culturale di Bologna e non solo nel calendario delle iniziative di arte contemporanea in Italia, e quindi abbiamo pensato che fosse il momento di fare il grande passo e di ripensare l'immagine coordinata, il logo, un po' anche il posizionamento di questa manifestazione nell'immaginario collettivo, soprattutto volendo fare un'operazione di avvicinamento anche a pubblici più giovani, pubblici molto attivi sui social. E detto che abbiamo quindi chiesto a due artisti, fra cui uno che conosciamo bene perché era stato anche protagonista al Nuovo Forno del Pane, che si chiama Filippo Tappi, di ripensare l'immagine coordinata di Artiti. E quello che è venuto fuori è una stella che sostituisce un po' il classico bollino blu di Artiti che ci ha accompagnato in questi anni, e queste stelle contraddistingueranno tutte le sedi di Artiti. Non dimentichiamo che Artiti ha come primo obiettivo anche quello di riscoprire dei luoghi della città, fare una visita non convenzionale alla città di Bologna, e quindi simbolicamente il pubblico quest'anno sarà invogliato a costruire una costellazione, a visitare questa costellazione di stelle che sono gli eventi principali di Artiti. Ma per farlo avrà un testimonial di eccezione, che è quest'anno Peter Pan, che è nascosto dietro la stella e che è un po' la guida che questi artisti hanno consigliato per visitare, per mettere insieme, per lasciarsi abbandonare in questa città che non c'è, in questa città immaginaria, fantastica, meravigliosa, che è la città dell'arte contemporanea, che c'è, è presente tutto l'anno all'interno delle nostre iniziative, ma che per questi giorni, per questa settimana in particolare, all'interno della programmazione diventa manifesta, diventa eccezionale, e quindi lasciarsi abbandonare, lasciarsi guidare per questi luoghi da queste stelle. E abbiamo soddisfatto anche le curiosità della redazione che ieri, guardando il logo, oh, mi raccomando, chiedi a Balbi perché Peter Pan è così adesso. Io un po', quando hai cominciato a parlare di costellazioni, la stella, ho immaginato un po' questa svolta, tra l'altro molto interessante appunto per scoprire, e questo è un aspetto fondamentale di una città come Bologna, che ha tanti punti nascosti, tanti punti anche esoterici, se vogliamo, che non possono far altro che scatenare la curiosità, come ho già detto in precedenza, di visitatori, di giovani, di un nostro quotidiano. Molte volte ci sfuggono queste sensazioni e questi aspetti. E beh, questa è un'ottima occasione per metterli vicino a una realtà artistica e trovarli ancora più presenti nel percorso di Art City. Luoghi, oppure ancor meglio, piuttosto che luoghi che magari conosceremo più avanti, parliamo di insiemi, cioè di eventi paralleli o qualche altra frangia legata ad Art City, che è vicina ad Art City ovviamente. Ma certo, beh, intanto sono contento, perché se la redazione era curiosa, sì, vuol dire che già abbiamo colpito nel segno, che, sì, questo Peter Pan con questa stella ha già suscitato la curiosità, che era sicuramente uno dei nostri obiettivi. Come hai detto giustamente tu, l'attenzione ai luoghi è sempre stato una caratteristica fondamentale di Art City: aprire dei luoghi, scoprire dei luoghi della città, magari luoghi non convenzionali, luoghi sconosciuti anche agli stessi cittadini, aprirli in modo eccezionale e farlo attraverso le opere degli artisti, però con grande attenzione proprio a fornire una sorta di visita, una sorta di guida turistica della città di Bologna diversa. E infatti quest'anno la manifestazione sarà accompagnata da una vera e propria guida, una vera e propria piccola Lonely Planet, in cui i visitatori saranno invitati a costruirsi un proprio percorso attraverso questi luoghi e visitare le installazioni, le opere che sono al loro interno allestite. Sicuramente però, come dici tu, Art City non si esaurisce con il progetto speciale, che è la grande installazione di Gregor Schneider all'Ex Gam, e non si esaurisce con i main project, che sono questi progetti che costituiscono questa costellazione. Ma Art City è un grande aggregatore, è un grande fermento, la capacità di mettere insieme tutto questo fermento creativo, ed ecco che quindi c'è un ricchissimo, come sempre, programma di iniziative correlate, di iniziative istituzionali che coinvolgono tantissimi musei della città di Bologna, sia musei dell'istituzione Bologna Musei che musei privati, che musei che fanno riferimento ad aziende, sia soprattutto, e questo devo ringraziare perché hanno sempre una partecipazione molto attiva, le gallerie d'arte moderna e contemporanea di Bologna, le gallerie private, che come da consuetudine, anche sfidando un po', diciamo, il periodo, propongono sabato una giornata di aperture prolungate di tutte mostre che in gran parte sono nuove, sono state proprio pensate e concepite per artisti, per questa ripartenza, diciamo, nel solco dell'arte contemporanea. Ma non solo, anche molti spazi indipendenti che sono poi veramente linfa vitale e vera capacità produttiva di Bologna si sono attivati e hanno iniziative di grande qualità e livello anche nei loro palazzi, nei loro spazi indipendenti, nei loro centri di produzione. Ovviamente non potrei citarli tutti in questo momento, sono centinaia di eventi. Un paio a sorpresa. Ma sul sito di Art City Bologna si trovano tutte queste iniziative. Ok, allora a questo punto non ti sto a tediare con un paio di luoghi o sorprese, ma rimandiamo al sito di Art City, anche perché si terrà dal al Lorenzo? Allora, i giorni clou, diciamo, di Art City sono il 7, l'8 e il 9 maggio, okay. Quindi venerdì, sabato e domenica della prossima settimana. Come ormai tutti siamo abituati, insomma, a vedere, le iniziative di Art City però iniziano prima e finiscono molto dopo. Diciamo che quelli sono i 3 giorni con la concentrazione più alta di eventi, ma il calendario di Art City è così fitto che pervaderà un po' tutta l'estate bolognese, tanto che quest'anno, con questo spostamento di data da gennaio a maggio, Art City è a tutti gli effetti il primo evento di Bologna Estate, questa iniziativa del comune, per cui moltissime sono le mostre, le performance, le installazioni che inizieranno durante quei giorni, ma che verranno portate avanti poi per tutta l'estate. Grazie per queste anticipazioni al direttore artistico Lorenzo Balbi, con noi su Radio Città Fujiko per portare Art City in mostra al Breakfast Club. Grazie Lorenzo, una buona giornata e buona Art City. Grazie. Grazie a te William, e vi aspettiamo tutti per Art City. Coccio spaziale. Arte contemporanea. Te l'ho già chiesto, ma è Franco Vaccari quello dello stacchetto? No, è mio padre. Ah, ma cavolo, parla come Franco Vaccari. Parla come Franco Vaccari. Salutiamo sia Franco Vaccari che mio padre. Dicevo, arte contemporanea si tratta, e naturalmente ringraziamo William Pianat che è il suo Breakfast Club che ci ha senza saperlo donato questa intervista a Lorenzo che ci aiuta appunto a capire che cosa succede durante Art City. Come avete capito, succede un gran casino, insomma ci sono un miliardo di mostre, tu ne hai qualcuna, anzi 333 180 94 94, chi vuole può raccontare la propria mostra di Art City che da non perdere. Oggi siamo in diretta. Apriamo alle telefonate. No, alle telefonate no, perché non c'è modo di sentire le telefonate. Sarebbe stato bello. E quindi questo numero che hai dato cosa sarebbe? Per Telegram, SMS e WhatsApp. Come al solito, e cioè, che noi poi leggeremo è la messaggistica, cioè, però quello che possono fare è lasciare un vocale su WhatsApp e quello lo possiamo ascoltare e poi passerà al vaglio severo del Pasquini, cioè, lo ascoltiamo in diretta perché è l'unico modo, cioè, voglio dire. Allora approfittatene, le possibilità sono queste. Se qualcuno si perde qualche pezzo, comunque sulla pagina di Cultura Bologna .it è tutto ben riassunto, cioè, sono fantastico. Tutti belli qua in calendario, anziché dire di andare su www.coxospaziale.blogspot.com, andiamo direttamente sulla pagina di com'è bolognacultura.it, no, www.culturabologna.it /artcity. Magari lo mettiamo sul blog, sì, così che facciamo prima, no, esatto. Andiamo sul blog per poi reindirizzare lì, così siamo un po' coerenti con quest'opera, come dire, di presa in prestito, chiamiamola così, di meta metafurto. Sì, metafurto non è male, non è male possiamo, si può usare. Dunque, che cosa possiamo evidenziare? Tu, per esempio, che cosa evidenzieresti? Allora, io evidenzierei, ma anche perché cronologicamente parte prima, domani c'è la conferenza stampa e poi aprirà dal 7, 8, 9 la mostra di Ellen Dowling, Something for the Ivory, che è il risultato di un periodo che questa artista tutta UK, quindi dovrebbe essere abbastanza nelle tue corde, Stefano. No, infatti sono curioso di vederla domattina. Ha sviluppato all'interno del programma di residenze Rose, che è un programma di scambi culturali che da anni è attivo in città e che permette ad artisti stranieri o anche italiani passare un periodo di residenza e ricerca, e i cui esiti si vedono poi presso la bellissima Villa delle Rose, che è veramente un gioiello sottoutilizzato. Per me è talmente bello che lo trovo sempre sottoutilizzato. Capisco. È un punto di vista mio questo, lo metto tra parentesi. Sì, no, ma non credo che chiuderanno Radio Città Fujiko per colpa di questo commento. No, ben altri si sbilanciarono da questi nostri microfoni. Anche perché poi sfoderiamo lo Stato sociale a difenderci, e altro che Fedez, insomma. Certo, naturalmente, anzi adesso è il momento giusto per fare un po' di polemica, esatto, con i cosiddetti gli apparati, però noi non abbiamo obiettivamente nessuno con cui prendersela. Detto questo, i nostri quattro orologi, uno fa le 19:29, uno fa le 19:31, fa le 19:32, 37, 38, 39 secondi, e quindi... Ciao, siamo le Linkfingers e questo è Coxo Spaziale. Esattamente, questo è Coxo Spaziale, hai capito? E dunque, cos'altro mi consigli? Visto che tu mi hai tipo interrotto a metà così, senza... Parlando di Ellen Dowling, continuiamo a raccontare. Non avevo ancora Villa delle Rose. Del tutto finito. Okay. No, diciamo almeno che durante il suo periodo di residenza a Bologna si è concentrata sul rapporto tra corpi e dinamiche produttive, mettendo in relazione il processo di creazione di filmati stock con l'attività di Anna Morandi Manzolini, che è una storica anatomista, la prima anatomista donna, che fu anche docente di anatomia all'Università di Bologna, classe 1714. Le sue cere possono essere viste al museo di Palazzo Poggi e sono veramente molto interessanti. Quindi mi incuriosisce, il percorso espositivo si compone di 5 installazioni immersive, tra cui la nuova produzione video Xylophone, concepita e realizzata durante il periodo di residenza a Bologna e che nella concezione dell'artista fa il paio con la precedente opera. Stai Holden. Leggendo e si sente. Benissimo. Prendo esempio dal maestro, esatto, che di solito legge i bugiardini a una velocità non commensurabile con la mia. Infatti tu stai andando benissimo. Non mi sento di competere. Assolutamente. Io infatti oggi non leggo niente. Perfetto. Bene, però io passo la parola a te perché adesso obiettivamente ho terminato. No, anche questo naturalmente, come tutto il resto, va prenotato entro 24 ore del giorno precedente. Esatto, per cui bisogna chiamare o scrivere il giorno prima. Esatto. Giusto. Ah, trovavo questa adesso interessante www.coxospaziale.blogspot.com mettiamo tutti i link per tutti cui non vi potete sbagliare. Non vi potete sbagliare. No, questa cosa sulla pagina di Cultura Bologna non c'è. Ad Anna Morandi Manzolini è stato dedicato un cratere sulla superficie di Venere, il cratere Manzolini. Ah, wow, fantastico. Sì. Vedi? Hai capito. Io invece, secondo me, io adesso non l'ho ancora vista perché la conferenza stampa era stamattina e avevo altri impegni accademici stamattina. C'è da andare a vedere Alessandro Pessoli da Alchemilla. in via Santo Stefano. Anche sì, lì questa troverete. È un'altra mostra senz'altro interessante. Infatti, adesso Alessandro Pessoli è un pittore che ha partecipato a un paio di biennali di Venezia, lui abita a Los Angeles, per cui ho scoperto che non è nemmeno venuto, non è riuscito a venire a installare la mostra, ma la mostra è indubbiamente è da vedere, insomma. È stata spedita. Come le vere star. Pessoli è tra i grandi maestri o tra i mid-career? Io presumerei mid-career. Perché ha tipo un paio, da 2 o 3 anni più di noi, insomma. E quindi è amplissima la categoria dei mid-career. Tu sei mid-career? Indubbiamente. Cioè, sei mid-career. Perché volevi lasciarmi negli upcoming, no? Negli up, come si chiamano? Quindi, cioè, obiettivamente, so. Dopo essere stato un giovane artista tipo per 20 anni, francamente adesso sono contento di essere mid-career, come te del resto, anche tu sì, sei no, mid-career. Siamo mid-career, cioè, nel senso che prima però non siamo nella stessa situazione di Pessoli, secondo me. Comunque, vabbè, forse bisogna creare una categoria nuova, adesso ci pensiamo, ve lo diciamo la prossima puntata. Dai, queste sono quisquiglie, insomma, comunque sì. No, ma per amor di precisione lessicale, cioè. Ma sì, dai, cioè, non abitiamo a Los Angeles, però insomma, siamo mid-career come tanti altri. Insomma. Perfetto, allora... Oltre a questo, naturalmente le due mostre clou sono Aldo Giannotti al Mambo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e Gregor Schneider all'Ex Gam, di cui nessuno ha ancora parlato, anzi l'ha menzionato velocemente Lorenzo, e io, non contento, oggi ho richiamato Lorenzo, per cui adesso ci andiamo a sentire che cosa dice lui di Giannotti e di Schneider. Cosa ne dici? Ma sì, andiamo a sentire, andiamolo a sentirlo. Ho due domande. La mia prima domanda è: che cosa ci dobbiamo aspettare da Aldo Giannotti mercoledì? Da Aldo Giannotti ci si può aspettare veramente di tutto. No, scherzo. Questa che viene presentata al Mambo Stage & Sound è una mostra su cui Aldo Giannotti e tutto il Mambo lavora da quasi 2 anni, direi, perché era stata pensata prima del lockdown e per colpa, insomma, di vicissitudini legate alla pandemia, alla riprogrammazione dell'attività dei musei, eccetera, riusciamo a inaugurare adesso. Ma questo è stato un periodo che ha contribuito in maniera fondamentale a questa mostra, perché il tema della mostra era quello di un'indagine sul tema della sicurezza. Che cosa vuol dire al giorno d'oggi sicurezza, essere sicuri, essere protetti, essere sorvegliati, quindi agire in sicurezza o trovarsi in una condizione di sicurezza. E sicuramente questo tema è diventato ancora più centrale e più percepito e percepibile dopo lo stato di emergenza sanitaria. Quindi molte delle opere, delle installazioni, delle suggestioni che sono in mostra mettono proprio in crisi il concetto di sicurezza, il concetto di cosa si può fare in uno spazio pubblico, cosa è lecito aspettarsi e cosa è invece trasgressivo poter fare. Aldo Giannotti mette in crisi l'istituzione, mette in crisi il museo, mette in crisi lo stare insieme all'interno di un museo e come ci si deve comportare all'interno di uno spazio pubblico. Quindi diciamo che questa mostra è stato anche un tentativo dell'artista di andare a sfidare il museo, a sfidare l'istituzione e le regole che determinano la visita di un'istituzione e soprattutto quelli che sono i protagonisti. Quando uno dice vado a vedere una mostra vuol dire anche interpretare un personaggio, no? Il visitatore ha dei comportamenti, ha delle linee guida, ha delle suggestioni che derivano dal fatto di essere un protagonista di quella visita, anche se non è detta, una partitura, uno schema narrativo, delle cose che si possono fare, delle cose che non si possono fare. Ecco, il visitatore nella mostra dei Giannotti diventa un ruolo attivo. E quindi quello che vi posso dire, poi ovviamente vi invito a vederla, è che non è una visita passiva, ma una visita estremamente attiva, dove anche l'essere visitatore assume un nuovo significato e delle nuove possibilità. Fantastico. E questa, ricordiamolo, è aperta da mercoledì. Allora, la mostra, purtroppo, non inaugura, giusto? Dobbiamo anche rivedere le nostre terminologie dopo, esatto, diciamo, l'emergenza sanitaria, per cui non ci sarà il canonico opening, la canonica inaugurazione delle mostre, perché questo è un formato che in questo momento non è garantibile, diciamo, dalle normative di contenimento del contagio, per cui la mostra aprirà al pubblico da mercoledì 5 maggio al mattino alle 11, dopodiché sarà regolarmente visitabile su prenotazione tutti i giorni della settimana, martedì alla domenica, con gli orari di apertura del Mambo. Per la prima settimana, quindi da mercoledì 5 a domenica 9, ci saranno degli orari estesi e l'ingresso gratuito, perché la mostra di Aldo Giannotti fa parte del grande programma istituzionale di Arte di Bologna 2021. Di cui hai già parlato ampiamente con il nostro collega William Piana, e di cui ti ringrazio perché così mi hai tolto un po' di lavoro da fare. Fantastico. E invece un'altra mostra clou che mi sembra molto importante è quella di Gregor Schneider all'Ex Gam, giusto? Esatto, l'evento speciale di quest'anno di Arti di Bologna è la grande installazione. Scusatemi, ma intanto qua siamo anche in allestimento, come potete sentire dai rumori, non ci fermiamo mai. La grande installazione di Gregor Schneider all'Ex Gam, come ormai d'abitudine anche per questa edizione di Artiti, c'è un evento speciale, un progetto ambizioso di caratura internazionale, in cui abbiamo chiesto ad un artista di livello, appunto, internazionale come Gregor Schneider, che è uno degli artisti più influenti sulla scena artistica internazionale, e non devo stare a ripetere la sua carriera, basti pensare a Leone d'Oro, alla Biennale di Venezia del 2011, nella quale Gregor Schneider rappresentava la Germania con il padiglione tedesco, con questo Haus UR, che è stato poi una delle opere più importanti degli ultimi decenni di arte contemporanea, e l'artista tedesco porta avanti da tempo una riflessione sullo spazio intimo, sullo spazio familiare, sullo spazio domestico, sullo spazio che è memoria e custode di sentimenti, di emozioni private, ma che assumono un significato diverso, un significato collettivo se portate all'interno dello spazio istituzionale, quindi creando un cortocircuito tra pubblico, privato, tra spazio personale, spazio di memoria e spazio della contemporaneità, della visita, della percezione del momento. Questi temi sono temi nella ricerca di Gregor Schneider molto presenti e molto indagati dalle sue opere degli ultimi decenni. In particolar modo mi sembrava interessante, in un momento in cui tutti quanti noi, consciamente o inconsciamente, abbiamo gioco forte dovuto un po' ridefinire le nostre attitudini, le nostre percezioni di quello che è lo spazio privato. Ci siamo trovati tutti quanti nell'ultimo anno a far convivere lo spazio privato, facendolo diventare uno spazio anche di lavoro, uno spazio di relazione, sebbene magari mediata attraverso qualcosa. Quindi credo che il vivere il proprio spazio domestico, il condividere il proprio spazio privato siano temi molto sentiti e molto presenti nella contemporaneità e nella vita di tutti noi, e questo, su questa sollecitazione Gregor Schneider ha ripensato una sua installazione che era stata proposta a Sculpture Project di Münster nel 2017, l'ha ripensata e rieditata per la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, nella quale sarà allestita giovedì 6 maggio per 15 giorni eccezionalmente, e la visita a questa installazione è permessa una persona alla volta, quindi proprio creando quello spazio di intimità e quello spazio di relazione con il contesto uno a uno che è più volte evocato nei suoi lavori e nelle relazioni con i suoi luoghi. Tanto passano degli altri carrelli, scusatemi. per cui vi invito, insomma, a vivere quella che non è solo la visita, un'installazione, ma è una vera e propria esperienza, un'esperienza di relazione con un'opera, ma anche molto interiore, di relazione con uno spazio privato ma non proprio. E di nuovo, naturalmente, bisognerà registrarsi, adesso poi sul nostro sito scriveremo tutti i link per poter accedere a questa installazione, giusto? Sì, assolutamente, ribadiamo sempre che le modalità di visita post coronavirus o durante coronavirus sono fortemente cambiate rispetto a quelle precedenti, per cui dobbiamo abituarci a un nuovo modo anche di visitare i musei, di visitare gli spazi pubblici. E la prima grande novità, il primo grande requisito è quello della prenotazione, quindi invitiamo il pubblico che vorrà girare per Art City e vedere le varie mostre che compongono il programma istituzionale main di Art City di prenotare la propria visita, prenotarla magari con un giorno di in anticipo, in modo da avere la certezza del posto per ogni singola visita. Tutti gli eventi di Art City sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Io ti ringrazio tantissimo e naturalmente ci vediamo in questi giorni a tutte le non inaugurazioni che ci saranno per la stampa o per il pubblico, infatti. Grazie mille e so che sei indaffaratissimo, per cui ti lascio a tutti i tuoi lavori e ti auguro naturalmente buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro anche a voi, vi aspetto nelle varie sedie. Certo, grazie. L'angolo della menzione. In realtà era già un angolo della menzione dall'inizio della trasmissione, visto che non stiamo facendo altro che menzionare mostre che stanno per aprire, insomma. Oddio, perché sei eri spenta, scusami. È la moda della puntata, è silenziare me. Silenziare Chiara Rosa. Chiara Rosa, sì. E non silenziare. Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Hai capito, e non silenziare Pino Boresta. Ti sentiamo digitare abbastanza. Io ho altre mostre che secondo me sono da non mancare e innanzitutto naturalmente volevo menzionare Giacomo Verde. Ecco, questo sì, assolutamente. Liberare arte da artisti, un'installazione screening del progetto Mock Jungle e questo è a Palazzo Renzo nella Cappella Santa Maria dei Carcerati in Piazza Nettuno 1. Dal 7 al 30 maggio leggo il comunicato stampa, sì. Dice esattamente a distanza di un anno dalla triste scomparsa di Giacomo Verde, Mock Jungle ospita lo screening dedicato all'artivista toscano d'adozione per mantenere viva la sua memoria e continuare a diffondere i contenuti del suo prolifico e fondamentale lavoro artistico. E niente, l'arte di Verdi fin dagli esordi si discosta da una volontà di affermazione quanto piuttosto è mossa da pulsioni di necessità. Non è stato l'unico, ma mi fa molto piacere che ci sia questa mostra e sono anche contento di andare a vedere appunto queste sono 14 video in loop per un totale di oltre 4 ore organizzate appunto dall'archivio Giacomo Verdi. Mi fa piacere che esista l'archivio Giacomo Verde e che appunto il suo lavoro possa continuare. Sì, devo dire che spicca anche all'interno del cartellone proprio per il titolo. Mm-hmm. Liberare arte da artisti. Sì. Non è male, infatti. Non è male, no, perché pensavo un po', vabbè, però non ci addentriamo troppo in cose che ci competono troppo. Esatto, non ci addentriamo. Io invece, se tu hai la possibilità di mettere lo stacchetto, avrei anche un fuori porta. Addirittura, su un fuori porta, stavo per mettere una menzione stacco, invece un fuori porta non ce l'ho. Ti metto questo. Ecco, vai, dimmi di un fuori porta, ma perché chi un fuori porta? Chi volesse invece evadere da tutta questa delirio? Ma non puoi fare una roba del genere. No. Dove devono andare? Potreste anche l'8 di maggio andare a Prato al Museo Pecci, perché se tu ricordi noi abbiamo avuto qui ospiti Francesco Urbano Ragazzi tante certo. puntate mm-hmm. fa e avevamo un po' promesso che avremmo anche ricordato il momento in cui la mostra che loro all'epoca curavano a Ginevra, sì, mm-hmm. al Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, noi lo avremmo detto e quindi lo diciamo. E quindi poi lo diciamo adesso, la mostra poi giusto. Rimane fino al 3 ottobre, quindi non è che bisogna... per cui magari abbiamo anche modo di approfondire. Per forza l'obbligo di andarci l'8 o il 9 maggio che qui c'è Art City, però esatto. comunque apre comunque tu ci vai, l'8. beh, adesso questo ancora non l'ho al 100% deciso, devo dire la verità, okay. Che sai che sono in predicato, ah, sì, certo. per questioni indipendenti dalla mia volontà. Chiara Fumai, Poems I Will Never Release 2007-2017 è una retrospettiva del lavoro di Chiara Fumai, dell'opera di Chiara Fumai, a cura di Milo Vanfarronato e Francesco Urbano Ragazzi in collaborazione con Cristiana Perrella. Non dico altro perché penso che le parole siano assolutamente non all'altezza dell'opera di Chiara Fumai, quindi andatela a vedere quando volete. Tornando invece dentro ad Art City, io vi consiglio di non perdervi Giuseppe De Mattia, Narrazioni Brevi, e questa è all'Abs Contemporary Art in via Santo Stefano 38, e anche questa è dal 7 maggio al 26 giugno, per cui abbiamo un po' più di tempo in questo caso, sempre che non richiudano tutti, tutto questo è. Ma adesso però Giuseppe non tirare proprio così, no, infatti, Giuseppe De Mattia, per chi di voi è un attento ascoltatore, era stato uno dei forno panisti e l'avevo uno dei tuoi forno panisti preferiti. Non bisogna dire così, insomma, queste sono cose che io si dicono. Io questa sera non sono politically correct, mi vendico. Ho capito. Mentre invece mi interrompi, allora esatto. Quando parlo dico delle cose che non si devono dire. Poi abbiamo la nostra comune amica Virginia Zanetti con Be a Poem alle sale espositive del secondo piano di Palazzo da Curzio. E anche lei fino al 6 giugno, direi. Anche lei fino al 6 giugno, per cui non ne parliamo nemmeno. Intervistiamo direttamente lei quando capita. Com'è che non l'abbiamo intercettata? L'abbiamo intercettata perché lei, non lo so, con me non si è fatta sentire. Non so se si è fatta sentire, forse era impegnata. No, ma forse forse dobbiamo chiarire. Forse siamo noi che dobbiamo telefonare a tutti gli artisti che erano a Bologna per Art City. No, però magari Virginia Zanetti avremmo potuto chiamarla. Ok, vabbè, così comunque. Come potevamo chiamare Flavio Favelli e Nanni Menetti, che fanno questa mostra con due pezzi che sembrano uguali, si chiama 1x2 Flavio Favelli, Nanni Menetti, Fabiola Naldi, tutti insieme. E mostra, performance, affizione pubblica, di nuovo alle comunicazioni comunali d'arte a Palazzo da Curzio, e di nuovo dal 7 maggio al 20 giugno, ed è praticamente, sono due opere che sembrano uguali, 140x100 centimetri, realizzata con tecniche differenti ma dal risultato simile. E queste sono esposte nella sala urbana delle collezioni comunali d'arte, il che significa che con la tessera Bologna Musei la andate a vedere gratis. Se invece non avete la tessera Bologna Musei, fatevela, perché così la andate a vedere gratis. Così anche Roberto Grandi è contento che abbiamo fatto contenti tutti oggi. Certo. Tutti no, perché c'è un sacco di gente che non stiamo menzionando. Però adesso prendiamo una bella infornata, 141, facciamone contenti 141. Perché sono le 19.54 e è 19.56 e ti avevo anche visto nelle foto che andavi a sbirciare, mm-hmm. E speravo che ci avresti detto qualcosa di più, invece no. Di che cosa? 141. 141. Un secolo di disegno in Italia. No, scusa, hai ragione. Te l'hai completamente dimenticato. Poi dopo mi stavi risilenziando proprio, esatto, sul più bello, che io portavo 141. No, è che mi ero dimenticato che si chiamava 141. Una volta sola. Esatto. No, è una mostra con 141 disegni, no? Con appunto, che racconta un secolo di disegno in Italia in maniera abbastanza così. Non saprei. Non vorrei usare un termine, cioè la mostra è fantastica, allestita meravigliosamente, ecco. Poi però obiettivamente io non l'hai capito, non ho capito il taglio, nel senso che ci sono artisti famosissimi, altri pressoché sconosciuti, altri che sono usciti ieri, altri che esistono da 200 anni, no, perché è un secolo, però un taglio trasversale, un taglio molto trasversale e direi anche molto personale, per cui Claudio Musso e Maura Pozzati, che sono i curatori della mostra, prima o poi li pressiamo e gli toccherà venircelo a spiegare a noi direttamente dopodiché naturalmente non menzionerò la mostra che c'è all'Assemblea dell'Emilia Romagna, perché ci sono anch'io, per cui non andatela a vedere. Questa supera tutte le mie messe insieme di stasera. Comunque, esatto. Potevi almeno lasciarla a me, lanciarmi un amo, insomma, una cosa così. Ti posso lanciare una pezzolina. La mostra hall di adiacenze, se vuoi. che però non trovi, per no, cui, esatto, no, quindi ma va no, bene così. Io direi che questo era Coxo Spaziale. Nessuno ci ha messaggiato, volevo mettere agli atti che nessuno ci ha messaggiato al 333 180 94. Lo scrivo 94, negli appunti, così ce lo ricordiamo negli appunti come dobbiamo sapere cosa non dire in trasmissione, come non impostare una trasmissione. Sappiamo che questa era il riferimento, esatto, per cui come al solito io ero Chiara Verde, no, Blu, perché Blu. Chiara Blu e tu eri sempre Stefano W. Pasquini. Questo era sempre Coxo Spaziale e ha detto tutto lui. Notare bene che esatto. Stasera è così. Ci stanno messaggiando, ma sul mio cellulare. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Che è una gran sigla, però. Cioè, no, niente da dire. Finiamo in bellezza. Senti qua che pezzo. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero. Pipero. Ruotate le dita. Pipero. Unite le falangi. Bene, ora ripetete con me, più umano, più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli u pippero. Se in discoteca balli u pippero, pippero. Molto bene, ora da sole. Più umano, più vero. È un ballo sincero. È un ballo sa di pippero. Molto bene. Pompa, pompa, pompa. Dio buono come pompa il pippero.